Tempo di sport con Carlo Genta. Sono partiti Kakà e Ibra, però sono arrivati Eto'o, Lucio, Diego, sono arrivati grandi giocatori. Abbiamo di nuovo recuperato un grandissimo italiano che si chiama Alessandro Nesta e perciò non abbiamo perso tantissimo. Il campionato sarà il solito, molto avvincente, molto difficile, non il più bello ma il più difficile. E non è detto che chi ha passato un'estate con qualche delusione non debba magari avere qualche soddisfazione durante l'anno. Chi vince il campionato? La Juve. Una persona della dimensione, della responsabilità del nostro CT non può dire una cosa così. Perché un CT dire prima dell'inizio del campionato che una squadra va a vincere il campionato, mi sembra. Anche se lo desidera, anche se lo posso volere, però dirle è una mancanza di rispetto. Che un giornalista possa dare la sua opinione e dire che la Juve vince, ok, è un giornalista. Che un giocatore, un amministratore, un presidente della Juve lo dica, però veramente è la prima volta che vedo un CT, una persona con una grandissima responsabilità istituzionale, dire che il campionato sarà della Juve. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadore in regia, e siamo tutti molto curiosi di sapere quanto questa sterile polemica tirata per i capelli, quanto questo pronostico di Lippi e questa replica di José Mourinho abbiano inciso sui weekend degli scommettitori italiani. 800 24 00 24 è il numero verde. SNAI, Inter 1,80, Juventus 3, Milan 7,50, queste sono le quote. Bwin, Inter 1,90, Juventus 3,25, Milan 3,50. Eurobet, Inter 1,80, Juventus 3,75, Milan 6, dunque si crede poco ai rossoneri da titolo. Sisal, Inter 1,90, Juventus 3,50, Milan 6. Gioco digitale, Inter 1,83, Juventus 3,50, Milan 3, Milan 5,50, eccetera eccetera. Io voglio capire innanzitutto queste quotazioni come nascono e voglio capire se la buttata di Lippi, cioè il pronostico di Lippi, non è una buttata, è un pronostico semplicemente, e conseguenti esternazioni di Mourinho possano aver avuto riflessi. Naturalmente sto scherzando grosso modo perché so che non ne avranno avuti. Alberto Nassi è un quotista di SNAI, lo saluto e lo ringrazio, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il pronostico di Lippi incide? Ma come ho sentito nella vostra presentazione sembra una sterile polemica, un pronostico, effettivamente una valutazione credo puramente personale, chiaramente fatta da una persona molto competente, però per quanto ci riguarda noi non abbiamo modificato di una virgola le nostre quote. Ma ci mancherebbe altro, anche perché l'anno scorso Lippi disse testuale al TG5: vedo l'Inter favorita per lo scudetto, la penso così perché a me piace molto l'allenatore che ha preso Moratti. Queste le parole di Lippi esattamente un anno fa. Ma parliamo di cose un po' più serie, sulle altre magari torniamo dopo. Come vengono stabilite le quotazioni? Prima appunto ho letto di sfuggita le varie quotazioni della sua agenzia, della SNAI, ma anche di altre. E insomma, sull'Inter favorita si va dall'1,80 all'1,90. Seconda forza del campionato, la Juventus, si va dal 3 di SNAI al 3,75, ripeto, di Eurobet e di Better Lottomatica. Per il Milan invece valutazioni differenti, ma comunque un Milan staccato dalla coppia di testa. Come nascono questi valori, questi numeri, queste quotazioni? Ma le valutazioni vengono fatte, naturalmente il primo parametro è l'effettiva forza della squadra e quindi si valuta rispetto alla stagione precedente quali sono stati gli acquisti, quali sono state le cessioni, se l'allenatore diciamo lo stesso dell'anno precedente, quindi ci sarà continuità, oppure se c'è un allenatore nuovo che quindi per forza di cose magari potrà avere qualche problema iniziale, e naturalmente l'aspetto fondamentale nel caso dell'Inter, il fatto che abbia vinto i tre campionati precedenti naturalmente la pone in automatico come favorita, ecco. Quindi sono valutazioni che nascono da un pool di esperti per ogni agenzia, no? Come... Esatto, sono valutazioni chiaramente soggettive, cioè ogni quotista che è colui che stabilisce poi la quota diciamo su ogni squadra, su ogni avvenimento, praticamente in base alla sua esperienza personale, alle partite viste, alle state di forma, come dicevo prima, all'acquisto e cessione durante l'estate, fa una propria valutazione. Chiaramente noi in ufficio, per esempio, siamo in otto, ognuno di noi fa la propria valutazione e poi ognuno porta le sue argomentazioni per giustificare una quota più o meno alta. E le variazioni quando avvengono? Ogni quanto avvengono? Cioè dopo la prima giornata possono variare queste quote oppure più in là? Come sono le oscillazioni di questi titoli? Effettivamente, diciamo, certa. Chiaramente le quote inizialmente, per esempio, da parte nostra, il Milan, noi abbiamo messo una quota forse un pochino più alta come media rispetto al mercato, però... Sì. Però diciamo in questo momento il Milan credo che sia indiscutibilmente indietro rispetto all'Inter e Juventus per tutta una serie di motivi. Sappiamo, Maldini non c'è più, Kakà non c'è più, cambio allenatore, infortuni, preparazione con molte amichevoli per il mondo, e quindi forse da questo punto di vista il Milan è certamente un pochino più indietro, e quindi in questo momento questa è la cosa del Milan. Certo, se il Milan domenica vince a Siena, se vince il derby la seconda giornata, chiaramente la quota scende precipitosamente. Oppure diciamo, se vediamo magari, ecco, anche non in caso di vittoria, ma progressi dal punto di vista del gioco, sì, è chiaro che delle calibrature sulle quote vengono fatte. Io così a naso, insomma, per non essere banale scontato e per magari rastrellare qualche quattrino, una Roma a 25 potrei anche giocarmela. Non sono uno scommettitore, per la verità, anche se mi affascina molto questo mondo. È molto interessante anche le quote per la classifica cannoniere. Grande fiducia, noto un po' da tutti, per la coppia dell'Inter e Tomilito, dati capocannonieri a 6 entrambi, Totti a 9, Gilardino a 10, Pato e Di Vaio a 20. Ecco, mi giocherei la Roma e mi giocherei Pato a 20, non è male. Sì, sono, diciamo che è una valutazione corretta, anche se lei ha detto che non è uno scommettitore, però diciamo che è solo buona strada, perché sono valutazioni giuste, perché Pato effettivamente in partenza comunque come posso dire, è l'attaccante principale del Milan probabilmente, sì, quindi è quello che probabilmente giocherà di più e quindi ha più chance di segnare. Per esempio, se lei ha visto nella classifica, nelle varie quote per il capocannoniere, i giocatori della Juventus non sono molto, diciamo così, protetti, molto favoriti, perché comunque in partenza sono 4 attaccanti per 2 soli posti, in più c'è Diego che probabilmente segnerà, per cui alla fine dell'anno magari ci sarà una suddivisione di gol e quindi non è probabilissimo che uno di loro possa vincere il titolo, ecco. Senta, io la ringrazio, buon lavoro, da questi giorni, da questo weekend ne avrete tanto, io immagino, per le quotazioni e per le variazioni delle stesse, perché sarà un avvio di stagione, io credo, e qui faccio un mio pronostico, spero che nessuno si arrabbi, sarà un avvio di stagione molto, molto strano, almeno fino a ottobre-novembre, perché mi immagino squadre di seconda fascia, ma tra poco ne parliamo, a fare cose importanti. Grazie Alberto Nassi, quotista di SNAI. Ho subito un paio di ascoltatori, però ho anche il traffico in linea. Vedo diversi messaggi su Mourinho e le sue polemiche. Non era questo il tema centrale della discussione di cui volevo parlare, però facciamolo pure, qualcosa di divertente, anche se io non ritengo, cioè, credo che si debba dare a questo il peso opportuno. Cioè, Mourinho ha cominciato con i suoi mind games e il bersaglio grosso era Marcello Lippi. E dunque così è stato, ma siamo ormai abituati, no, a questi giochi di Mourinho, che ha ragione l'ascoltatore che scrive, ha fatto tutto da solo. Sull'argomento ha ragione da vendere Del Piero, che ha parlato in conferenza stampa poco fa dicendo Mourinho è bravissimo a scaricare le responsabilità dell'Inter, ma sì, ma il senso è tutto qui, insomma. Altro tipico argomento precampionato che interessa molto agli italiani, a me personalmente un po' meno, questo conta poco, cioè designazioni arbitrali. Collina ha detto che da quest'anno le designazioni verranno fatte al giovedì per permettere agli arbitri di preparare con più attenzione le partite. Designazioni che sono queste: Bologna-Fiorentina anticipo Vager-Vasoni, Catania-Sandoria-Abanti, Genoa-Roma-Morganti, Inter-Bari a Russo, Juventus Chievo a Gava, Lazio Atalanta Pierpaoli, Livorno Cagliari Peruzzo, Palermo Napoli Rosetti, Siena Milan a Tagliavento, Udinese Parma a Valeri. Questi sono gli arbitri della prima giornata. Carlo da Bolzano è il primo ascoltatore di oggi invece. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Sulla polemica Lippi Mourinho, io ritengo che Lippi abbia sbagliato a essere così diretto. Io la partita Juve Milan l'ho vista, ho visto l'intervista di Sky. L'affermazione vince la Juve a me aveva fatto pensare. Ma cosa? Mi fa pensare anche tutta la storia ultima della conduzione della nazionale. Ma guarda, Carlo, però quello l'allenatore Lippi, il vice era Ferrara, sì. Il legame di Lippi con quell'ambiente, insomma, è ben noto, però si tratta semplicemente di un pronostico. Altri avrebbero detto, a cominciare da Zoff, che ha, insomma, ha parlato in questo modo della risposta secca di Lippi, sarebbero stati più fumosi, sarebbero stati più sfumati. Lippi è andato dritto con un pronostico come l'anno scorso aveva detto Inter, cioè non francamente non ci trovo niente di clamoroso in questa valutazione del commissario tecnico. È semplicemente un pronostico, che sia ciò che Lippi si augura può essere, però questo è soltanto un pronostico come esprimiamo noi tutti i giorni, come viene richiesto a mille persone del calcio oppure no. È semplicemente un gioco. Non enfatizzerei il ruolo istituzionale di Lippi. È un uomo di calcio, è stato detto, ma secondo te chi vince lo scudetto? Beh, secondo me lo vince la Juventus. L'anno scorso aveva detto, lo vince l'Inter, e ci ha beccato, vediamo quest'anno. Gianluca, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno Carlo. Salve, dica. Sono un po' emozionato, mi scusi. Allora, volevo parlare anche io di Mourinho per quando guardava questa sua ultima uscita. Sì. Cioè lui guadagna 1 milione di euro al mese. Sì. Io vorrei spiegare soprattutto da lei o da qualcuno che me lo sappia dire. Che cosa ci mette lui per guadagnare 1 milione di euro al mese se pure un pronostico del CT della nazionale già ha trovato ostacoli? Non lo so, io non lo trovo assurdo questa situazione. Dunque, io le rispondo come Mourinho. Non sono 9, sono 14 compresi gli sponsor. Quindi sì, potrebbe essere anche qualcosa l'anno scorso. Si ricorda l'anno scorso. Con la squadra che si ritrova. Lui guadagna 1 milione di euro al mese. Non dovrebbe temere nessuno, perché io sono alle posizioni. Ma non teme. Ma Gianluca, non si faccia trarre in inganno, non teme nessuno. No. Non è una questione. Le ripeto: allora, la storia di questo allenatore anche in Inghilterra è stata fatta di. Molti di questi giochi, di questi giochetti, no? Di questi mind games, come li chiamavano giustamente, con un'espressione perfetta in Inghilterra, nei confronti dei suoi principali avversari, fossero essi Benitez del Liverpool, Wenger dell'Arsenal, soprattutto Ferguson del Manchester United. È semplicemente, come dice Del Piero, che ne sai, ci capisce, è semplicemente un modo che lui ha usato spesso anche nella scorsa stagione per togliere pressione all'Inter, ma non è una novità, no? Non è una novità. L'anno scorso, vi ricordate tutte quelle polemiche con Ranieri, con Ancelotti, che è stato l'unico a far perdere la pazienza ad Ancelotti, anche se per mezzo minuto, ecco. Sono polemiche inventate ad arte. In questo caso non se la può prendere con bersagli al momento piccoli come gli attuali allenatori del Milan e della Juventus, se la prende con il bersaglio grosso che è il CT della nazionale, che ha espresso in maniera, io ritengo, anche abbastanza innocente questo pronostico. Vorrei parlare un altro di altri discorsi con l'ospite illustre che avevo annunciato prima, che saluto e ringrazio, ed è Mario Sconcerti. Mario, buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a voi. L'epoca delle sette sorelle è finita da tempo, è storia, siamo nell'era del campionato a fasce già da un po', come scrivi oggi su Corriere della Sera, la prima fascia Inter e Juventus, l'altra molto ampia, Roma, Milan, Genoa, Napoli, Fiorentina, Palermo, Udinese, Lazio, forse Sampdoria, ed è molto interessante il fatto che tu noti è cresciuta la differenza tra le prime due e le altre, ma è molto diminuita quella tra terza e la decima della classifica, dunque fasce elastiche, direi. Sì. Fasce elastiche nel senso che si sono abbastanza rinforzate molte squadre, ma non si sono rinforzate abbastanza per fare il salto, per andare nella fascia diversa. Mentre alcune squadre che erano nell'altra, alcune squadre di prima fascia come il Milan, soprattutto penso anche alla Roma che comunque non ha perso giocatori fondamentali, Si sono nel frattempo, non diciamo che quantomeno non si sono rinforzate, non è tanto il problema dell'uscita di Kakà, anche l'Inter ha perso Ibrahimovic, ma Ibrahimovic è stato sostituito come meglio forse non si poteva, mentre Kakà no, praticamente non è stato sostituito, come non sono stati sostituiti Felipe Melo dalla Fiorentina, Aquilani dalla Roma, lo stesso Milito e Thiago Motta dal Genoa. Ci avviciniamo al campionato con qualche polemica piuttosto sterile, come quella di cui gli ascoltatori hanno già tanta voglia di parlare, io un po' meno per la verità, e qualche motivo di attrito. Quella di Mourinho davvero pretestuosa, la trovo, insomma, ha già cominciato i suoi mind games nei confronti della Juventus, ma non mi sembra il caso di enfatizzare questo piccolo scontro. Più seria invece la querela relativa alla tessera del tifoso, cosa un po' più seria. Io dico subito, magari non sarei d'accordo, ma senza gli estremismi del caso non sono molto lontano dalla posizione di Zamparini. Ma ti devo dire che anch'io essere arrivare, cioè, in pratica si fanno delle schedature alle persone normali. Esatto. È sempre la stessa cosa, cioè per cercare di combattere qualche migliaia di persone si mettono tutte dentro, come quando si danno le squalifiche ai campi. Perché, bravissimo. Francamente non solo eccessivo, ma mi sembra proprio scorretto. Mi sembra scorretto, ma poi non vorrei che in eccesso di demagogia poi con questo strumento si tenessero lontane le persone che invece si vorrebbero convogliare tranquillamente allo stadio, permettendo a quegli altri che sono maghi del raggiro di fare comunque i loro comodi. E poi in ogni caso io, in tutta onestà, i miei dati anagrafici e quelli di mio figlio per andare a vedere una partita di calcio non glieli do, quindi questa è la mia posizione, semplicemente così. Sono d'accordo. Pretestuosa invece quella di Mourinho, non mi sembra il caso di enfatizzare questo tipo di discorso, anche se va avanti e continua con questo tam tam tra una replica e quell'altra, oggi quella di Del Piero. Ma quella di Del Piero non lo so che gli ha detto. Ma ha detto semplicemente che Mourinho è bravo nello nel togliere responsabilità e peso sull'Inter. Ma sì, ma con questa... Io intanto non so in questo momento quali siano i pesi che sono sull'Inter, però non so, ognuno deve portare i propri di pesi, non è che li possa scaricare sugli altri. La vita non è fatta di questo, mi sembra scorretto anche in questo caso scaricare i pesi. Qui se c'è un commissario tecnico a cui viene chiesto un pronostico, certo, e questo lo dà, ma non si può dire che ha commesso una scorrettezza. A me non resta particolarmente simpatico Lippi, ma il gioco è questo. Mentre mi sembra un gioco, almeno è un gioco che non capisco, questo di Mourinho. Certo, Berlusconi grande protagonista di quest'ultima settimana, Mario, dalla posizione di Ronaldinho, che l'altra sera ha fatto grosso modo il centravanti boy, una posizione abbastanza incomprensibile, con Unter che invece è un centravanti e faceva la destra, al parlare secondo me un po' molto a sproposito di salary cap, che è qualcosa di strutturato, che non si introduce dall'oggi al domani, gli americani ce lo insegnano. Montengaggi continua a credere sia un problema gravissimo ma riflesso, un problema fondamentale strutturale, cioè quello della gestione del calcio, ma Berlusconi lo sa meglio degli altri, io credo. Sì, allora, partendo da Ronaldinho, io non credo che possa continuare così come l'ho visto, almeno al trofeo Berlusconi, per una ragione semplice, perché né Ronaldinho, né Pato, né Huntelaar sono giocatori che tornano, sono giocatori che accorciano verso il centrocampo, che vanno a cercarsi il pallone. Questo mette il Milan in grave difficoltà, perché è sempre in inferiorità numerica quando hanno il pallone gli altri a centrocampo. Certo. Qui, tu puoi fare qualunque cosa nel calcio, però basta che i giocatori ti seguano e i giocatori partecipino. Ronaldinho non è un giocatore che partecipa, è un giocatore che aspetta la palla, che vuole la palla sui piedi. E Huntelaar è un giocatore classico da area, per cui non è un giocatore che va nemmeno lui incontro alla palla. Pato finta di andare incontro alla palla perché poi la vuole in profondità. Cioè, non sono i tre attaccanti, sono tre attaccanti molto interessanti, ma non sono tre attaccanti con cui che puoi mettere tutti insieme. Certo. Quanto al problema del salary cap, tu come la vedi questa faccenda? No, ma questo è una, cioè, se la domanda è i salari gli stipendi dei giocatori sono molto, sono troppo alti? La risposta è certamente sì. Ma se la domanda è dobbiamo mettere per legge un abbassamento degli stipendi, questo non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai perché anche cioè, proprio perché il libero mercato ti dice che ognuno ha il diritto di fare Perfetto. Quello che vuole, e Berlusconi lo sa esattamente perché l'ha inventata lui in Italia. Cioè, lui deve perdere l'illusione di trasformare in legge qualunque sua esigenza, e a volte ci sono anche le normali esigenze. D'altra parte l'esempio che lui fa per spiegare per spiegare i risultati, cioè dice io ho presi Gullit 10 miliardi ma ne ripresi 15 di pubblicità, è esattamente quello che dice il Real certo, Madrid. Certo. Per cui ci sono già tante squadre che hanno un tetto salariale, la maggior parte delle squadre in Italia, il tetto salariale in Italia è dato dai diritti televisivi, dagli incassi che le squadre fanno tra Sky e Mediaset, cioè la cifra che prendono dalle televisioni, quello è il loro tetto del salariale. Ce ne sono altre che, come il Milan, come l'Inter soprattutto, che sforano, però è un problema loro. È un problema loro, esattamente, e sta a loro risolverlo senza imporlo agli altri, insomma. Ti rubo un'ultima considerazione su un altro dei temi di questi giorni che precedono immediatamente il campionato, è quella dell'apertura o meno delle porte azzurre agli ospiti stranieri, da Amauri a Thiago Motta a Taddei. Insomma, se un giocatore serve, può essere chiamato, se la legge naturalmente lo consente? Sì, ma non solo. Quello non può essere nemmeno un problema. Tu puoi fare. Infatti io sono rimasto molto sorpreso dalle dichiarazioni di Lippi, che dice noi non vogliamo allargare troppo. Noi dobbiamo metterci in testa una cosa, questi sono gli italiani. Per cui se un giocatore, tu non puoi guardare dove è nato, tu devi guardare come gioca. Se ti piace come gioca, non puoi dire non lo chiamo perché è un italiano acquisito e non un nativo, perché questo è veramente discriminazione. Anche perché poi in una manifestazione come i mondiali vai per vincere, non per far bella figura. No, e quindi se ti serve Thiago Motta, chiami Thiago Motta, se ti serve Amauri, chiami Amauri, potendolo naturalmente fare senza imbrogliare. La legge dice che la nazionale è aperta agli italiani. Non fa distinzioni. La differenza tra i razzismi è che ci sono i razzismi che si limitano all'ignoranza, altri che si allargano all'offesa, ma il razzismo vero è la discriminazione. Cioè, tu non puoi fare una cosa perché non sei come me. Questa è esattamente quella. Certo. E viene presa come una... viene presa da una federazione, da un commissario tecnico, quasi con orgoglio. Io credo, naturalmente, non è il razzismo, è semplicemente una sciocchezza non aver capito ancora la profondità del problema. Però è tempo che qualcuno glielo spieghi, ecco, anche in federazione. D'accordissimo con te, Mario, ti ringrazio davvero, buon lavoro. Arrivederci. Grazie davvero, Mario Sconcerti. Franco Venezia, Enrico Padova, buongiorno Franco. Buongiorno, buon pomeriggio. Volevo intervenire non a livello tecnico sportivo, ma a livello finanziario delle varie società di Serie A, eccetera. Sì. La domanda tecnica è questa. Perché varie società retrocedono, specialmente vedendo la Lega Pro, eccetera? Questo non si attiva anche nelle maggiori categorie a livello Serie B e Serie A. Vediamo tipo Udinese, tipo Juventus ultimamente, che stanno abbastanza bilanciando bene la cosa. Sì. Mi sfugge qualcuna chiaramente, ma però a livello di quattrini che sforano al di sopra, mi sembra a me alquanto poco normale. Perché non attivano queste, tra virgolette, retrocezioni? Dunque, ne abbiamo parlato ieri, la risposta è molto complessa. Insomma, ci sono dei parametri stabiliti dalla Lega Pro che sono, come per una discrasia tutta italiana, diversi rispetto ai parametri stabiliti dalle singole leghe di Serie A e di Serie B. Questo permette, ad esempio, a un club come l'Inter, ma non è l'unico, che non ha parametri che non sarebbero in regola per i criteri della Lega Pro, di rientrare comunque nei parametri stabiliti dalla Lega di Serie A. Dunque è per questo che accade. Io credo che, insomma, poi molti dicono ecco, l'Inter non può iscriversi. Credo che la colpa sia di chi attua queste normative un po' bizzarre, ma non è l'unico caso in Italia, di chi non attua una normativa univoca, non la fa applicare, non la applica fino in fondo, insomma. Quindi è così. Enrico Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo parlare della questione Lippi Mourinho. Mi ricordo che ad esempio 2 anni fa l'Inter ha avuto un periodo che era favorita da decisioni arbitrali, i media hanno iniziato a parlarne e ha avuto 4-5 arbitraggi a sfavore. Alcuni anni fa il Milan durante il giro di andata ha avuto 11-12 rigori a favore e i media hanno iniziato a parlarne e non ne ha più avuti per 6-7 partite. Questo, quello che voglio dire è che quando si mette l'opinione pubblica a parlare di una cosa, ci sono incondizionatamente delle pressioni sugli arbitri che nel dubbio tendono a fischiare o meno alcune decisioni. E quindi se Lippi dice una cosa, secondo me può portare a far fischiare l'arbitro. Ma mi deve spiegare perché, Enrico? Ma mi deve spiegare perché? Ma perché? Perché Lippi ha... Ma all'arbitro cosa gliene frega se Lippi dice che lo scudetto lo vince la Juventus? Cosa gliene può importare a un arbitro? Perché Lippi conta molto nella nazionale e ha la sede a Conversano. Gli arbitri lavorano con Conversano e fanno parte della stessa barca. Ho capito. E quando devono fischiare nel dubbio se... Lippi ha detto una cosa, secondo me loro sono condizionati per gli esempi che le ho appena detto. Quindi Enrico ammetterà che allora siamo in perfetta par condicio, no? L'anno scorso Lippi disse Inter e mi piace molto l'allenatore che Moratti ha scelto, dichiarazioni registrate, quindi facilmente verificabili, quest'anno dice Juventus. Perfetto, questo può condizionare secondo me gli arbitraggi. Okay. E siccome Lippi è furbo e probabile, probabilmente sa di questo, ha trovato in Mourinho pane per i suoi denti, perché è ancora più furbo di lui e sa che questo può condizionare certe decisioni arbitrali. Questa è la mia opinione. Ma assolutamente diritto di cittadinanza, esattamente come la mia, che è però un po' diversa, insomma. Mi sembra abbastanza fantascientifico che Lippi abbia fatto tutto questo tipo di discorso e abbia detto Juventus, che Lippi poi faccia il tifo per la Juventus che ha allenato per 1000 anni, ma questo cosa conta alla fine? Credo nulla, ripeto, credo sia una polemica molto pretestuosa, credo che Mourinho sia portato avanti con i suoi giochetti nei confronti degli avversari, credo non si, questo è soltanto l'inizio, perché non appena troverà un altro nemico, un altro pretesto, si attaccherà anche a quello e questo è finito, insomma. Io penso che ma la risposta di Lippi sia stata essenzialmente molto, molto innocente. Non vedo come si possa leggere dietro a un pronostico tutto questo tipo di marchingegno, di condizionamento, mentre mi è molto più chiaro il comportamento di Mourinho, che non è inedito, come dimostra la sua esperienza anche britannica. Dunque adesso però voglio rispondere una volta per tutte a una delle domande più ricorrenti da questi microfoni. Ci saranno gli ultimi fuochi d'artificio sul mercato? Quali? Intanto Snyder va a completare un mercato praticamente perfetto dell'Inter, anche se c'è ancora, risulta dalle agenzie, qualche dettaglio da mettere a posto, dice il procuratore di Snyder. Saluto e ringrazio di nuovo Gianluca Di Marzio da Sky. Ciao Gianluca, grazie. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, gli ultimi fuochi d'artificio ci saranno, quali saranno? Sono quelli che verranno anche scoppiando in faccia a mezzo un'altra trasmissione. No, scherzo, no, beh, sicuramente Snyder sarà il primo, non è ancora fatta come hai detto tu, anche perché ci risulta proprio in questi minuti di un inserimento di Bayern Monaco e Manchester United, che però assomiglia molto ad un'azione di disturbo a livello internazionale che non ha una vera volontà di prendere il giocatore. C'è una riunione in corso in questo momento nella sede dell'Inter dove sta cercando via via telefono di chiudere i conti con il Real Madrid, con lo stesso giocatore che mi sembra abbia capito già ieri di non rientrare più nei piani del Real. Sì, non elegantissima la manovra madrilena, nei confronti di Snyder. Veramente no, però sai, quando spendi tanti soldi come hanno speso loro, devono in qualche modo anche rientrare. Certo che hanno comprato Huntelaar e Snyder un anno e mezzo fa e alla fine li hanno comprati a 27 e li rivendono a 15, quindi evidentemente anche loro sbagliano, non sono dei fenomeni dal punto di vista degli acquisti e delle cessioni. Senti, il resto penso che la Fiorentina dovrà fare sicuramente qualcosa, dovrà fare il difensore e l'esterno, la Roma dovrà fare sicuramente la punta e il difensore, il Bologna dovrà fare tanto. E penso che Zalageta sarà il primo rinforzo in queste ore, e quindi sicuramente ci sono queste 3-4 squadre, la Lazio che dovrà credo trovare la soluzione giusta per Pandev, De Silvestri e Ledesma, insomma qualcosa ancora c'è. Poi credo che la prima giornata di campionato possa aumentare ancora di più i fuochi, perché quando uno perde le prime partite poi di solito cerca sempre nel mercato la soluzione riparatoria. Sì, Snyder all'Inter mi sembra un'idea perfetta, cioè è il giocatore che serve all'Inter, un giocatore che a me piace moltissimo, molto versatile, di ottimi piedi, di grande talento anche fisico. Mi sembra la soluzione ideale tra tutte quelle prospettate. Tu che ne pensi? È vero, era il giocatore tra l'altro in cima alla lista non solo di Mourinho ma anche di Moratti e di Branca, quindi ha messo forse per la prima volta in questo mercato d'accordo veramente tutte le componenti, società e allenatore, che magari in altre operazioni forse non erano state proprio d'accordo. E tra l'altro è un giocatore che può anche non fare solo il trequartista, cioè Snyder in un 4-4-2 può fare anche l'esterno, può fare il centrocampista, cioè è veramente un giocatore capace di fare più ruoli, e quindi nel meccanismo di quest'anno dell'Inter, che può cambiare anche modulo a seconda dell'avversario, delle partite, può essere davvero la soluzione giusta per accontentare l'allenatore. Juventus e Milan devono iniettare chiaramente qualcosa sulle fasce, lo faranno? Io penso più la Juventus forse che il Milan. Io credo che la Juve un assalto a grosso lo farà ancora proprio negli ultimissimi minuti, sperando che il Lione lo dia via a zero, visto che ha preso Sissoko e quindi Grosso praticamente non è titolare del Lione, e quindi penso che un nuovo assalto lo farà. Male che vada può tentare per De Silvestri anche lì proprio allo scadere del gong, ma il Milan ci credo un po' meno, perché secondo me Oddo difficilmente troverà una soluzione. Il mercato del Milan è condizionato dall'uscita di Oddo, e Oddo guadagna tanto, non ha grande mercato, non so perché, ma evidentemente il fatto di essere andato all'estero in Germania ne ha fatto perdere un po' le tracce, e quindi non c'è grande voglia di prendere Oddo da parte di altre squadre italiane, e quindi credo che se non va via Oddo difficilmente arriverà un altro. Fiorentina, se c'entra la Champions League, avrà bisogno anche di quantità. Sì. Penso che avrà bisogno sicuramente del terzino. Io non trascurerei ancora Ebue fino alla fine, perché è sempre stato il primo della lista della Fiorentina e lo è ancora, secondo me, al di là delle smentite. Piace molto questo Jonathan del Cruzeiro, che è un ragazzo che ne parlano molto bene in Brasile, poi bisognerà vedere l'adattamento al campionato italiano. E Muñoz è un difensore centrale del Boca Juniors che arriverà sicuramente, ma avrà bisogno di tempo per recuperare da un infortunio. Però Pantaleo Corvino ha sempre vinto le sue scommesse tra virgolette sconosciute, quindi non penso che anche questa volta indovinerà il colpo, sperando che ce la faccia prendere anche Salvio, che è un po' il nuovo Lavezzi, e credo che l'Italia abbia bisogno di giocatori con queste caratteristiche. Se dovesse riuscire a prendere anche Salvio dell'Anus, che allora la Fiorentina completerebbe al meglio la sua rosa, anche in prospettiva futura, non solo per il presente. Abbiamo bisogno di facce nuove, possibilmente di giocatori bravi. Gianluca, per chiudere, questo mercato mi sembra nel complesso abbia evidenziato una grandissima sofferenza, forse più di quanto non sia accaduto negli anni passati, per le squadre di terza fascia, per quelle tu citavi prima il Bologna, però hanno fatto e fanno davvero molta fatica, tanto che prima parlavamo con Mario Sconcerti di fasce elastiche per il campionato. Insomma, la terza fascia è nettamente staccata rispetto alla borghesia di centro. Sì, rispetto a Palermo, Napoli, sì, e la stessa Sampdoria, che comunque si presenta con Cassano, Pazzini, Semioli, Mannini, quindi la Sampdoria ha sicuramente molto di più rispetto a Bologna, Cagliari, Chievo e le altre. Io mi aspetto molto dal Catania, penso che il Catania in questa terza fascia sia quella che si sia mossa meglio, perché quando tu prendi il portiere della nazionale argentina, prendi Barrientos che è infortunato però è considerato un grandissimo talento, prendi Del Vecchio, confermi Ledesma, confermi Biagianti, penso che il Catania possa essere la rivelazione, è una società che spende il giusto, riesce ogni anno sempre a vendere un giocatore, quindi ad incassare, non va mai oltre quello che è il suo budget, e credo l'esempio da tenere in considerazione proprio per le società di quella fascia a cui ci facevi riferimento. Gianluca, per chiudere, preview per stasera, su cosa stai lavorando? Così mi organizzo la serata. Chiaramente Snyder, c'è questo incontro in corso Bologna-Napoli per Zalaceta, Blasi e Mudingai, e poi vedremo se la Fiorentina farà qualcosa prima del ritorno con lo Sporting. Grazie, buon lavoro, grazie davvero. Grazie a voi, ciao Carlo. Ciao Gianluca, grazie. Allora, prima degli ascoltatori, fermi tutti perché è il momento di fare un salto a Berlino, ai mondiali. Questo sei meglio un uomo, però va bene. Sì, però vabbè, non si può mica dire niente. Più che deluso sono un po' arrabbiata perché comunque le ragazze di ieri non c'erano più, alcune addirittura sono state ripescate, e vederle adesso che fanno 1,57 per me sono cose un po' assurde, cioè, però cioè, va bene, sono più forti, è giusto che va bene così. Questa era la Kuzma di ieri sera, molto polemica, senza peli sulla lingua. Giorgio Rondelli, buongiorno. Polemica perché? Polemica, beh, quella... buongiorno. Ciao Giorgio. Polemica perché? Cioè. Polemica perché ha detto, vabbè, questo è un uomo, tanto per cominciare. E poi anche su... Vabbè, sulla... Però lei è arrivata a sesta, quindi anche togli l'uomo, fa quinta e saluti e baci alla medaglia. Saluti e baci alla medaglia, però hanno anche ripescato un po' di concorrenti per strada. Sì, hanno un po' ripescato un po' di concorrenti, però cioè, fate, diciamo... tolte un po' così, diciamo, le vertigini quando si va davanti ai microfoni, e bisognerebbe parlare di cose precise, tecniche. Si è dimostrato che quando il primo giro viene corso su ritmi molto veloci, certo, la nostra atleta, che ripeto ha fatto un'impresa, andare in finale e ha dato tutto quello che poteva dare, va in difficoltà. Anche a Torino, dove aveva preso la medaglia di bronzo agli europei, ma ripeto su un contesto europeo, con un passaggio in 56 secondi i primi 400 metri, poi era riuscita solo a riprendere disperatamente il bronzo. Quindi è un problema di velocità, tant'è che la britannica Meadows, che poi ha preso il bronzo, era addirittura dietro di lei fino ai 550 metri e poi si è portata in scia quelle davanti. Quindi questi sono dei dati di fatto. Poi magari quando c'è un po' di adrenalina, dopo secondo me non si è tanto lucidi. Poi se la prima è un uomo o non è un uomo, ci penserà la IAP ad indagare, a vedere quant'altro. Comunque poi c'erano altri, ripeto, altri atleti si sono buttati, hanno tenuto passaggi veloci, poi sono un po' morte sul rettilineo, Elisa era dietro, bravissima, 1,58,81, d'altronde il suo primato personale è di 58,63. Certo. L'atletica è anche matematica, poi al momento delle discussioni. No, matematica e tattica, tant'è vero che tu l'avevi, erano due giorni che dicevi dipende da quel primo giro, come il primo giro, lei giustamente è stata lì e la gara, diciamo, l'ha perso la possibilità di saltare sulle medaglie dai 500 ai 600 sul rettilineo opposto, quando ha perso la scia di tutto il gruppo dietro la semenia. Sì, il rettilineo l'avrà fatto anche come le altre, ma erano scappate via tutti. Erano scappati i buoi, era scappata la semenia. C'è questa polemica, no, in Italia adesso, sì. Oggi la mia non vuole essere così. Io, essendo un tecnico di mezzo fondo, credo poi di aver anticipato anche sul Corriere della Sera quali erano le chiavi, delle tattiche tecniche e cronometriche della finale. Sono arrivate settima e ottava le atlete erano meno accreditate e poi c'era un pacchetto di 5-6 atlete che si giocava il posto, le altre medaglie, è stata brava la britannica Meadows a recuperare, e poi la Jepkoskei non è quella dell'anno scorso, ma però se è lei che comunque ha condizionato la gara tirando il primo giro sotto i 57 secondi. Giorgio, tornano le storie che ci riportano la Kratochvilova, no? Che ci riportano la Gelimo, storia recente con questa atleta sudafricana. Sì, però la Kratochvilova mi risulta che sia tranquillamente sposata con figli, la Gelimo che abbia un fidanzato che mi pare non sia gay, per cui alla fine si fanno tante anche delle chiacchiere e poi sono tutte da verificare, insomma. La Gelimo quest'anno non è in condizione come l'anno scorso, è andata fuori al secondo turno. Ecco, secondo me è un po' di agli azzurri, quando c'hanno davanti molti microfoni e molti giornalisti perdono di lucidità che servirebbe forse un po' di più, quando soprattutto bisogna scegliere le chiavi tattiche delle gare. Giorgio, io prima di salutarti ti voglio chiedere di due persone. La prima è Usain Bolt, che questa sera fa i 200, io credo in scioltezza. Non sono così convinto che farà un record questa sera, anche perché il parterre di avversari è ridottissimo. Un giorno di questi parliamo anche di un trend di questi mondiali. Oggi Paula Radcliffe ha dato il forfait per la maratona finale, ma sono tantissimi quelli che abbandonano prima di andare sui blocchi di partenza, prima di andare alla linea di partenza, ed è un fenomeno molto, molto strano, assolutamente inedito anche per l'atletica a questi livelli spaziali. Bolt e Gibilisco, come l'hai visto stamattina? Gibilisco ha fatto il suo, era stato ripescato dal nostro CT Francesco Guagliati. Così con qualcuno aveva anche un po' storto la bocca perché non aveva saltato la misura prevista. Lui è stato lineare fino a 5,55 la prima prova, la terza l'ha fatta a 5,65. Per onestà di cronaca diciamo che anche con 5,55, avendolo saltato la prima prova, sarebbe poi entrato nei quattro atleti ripescati, una gara dove sembra poter essere un dominio dei transalpini con la Villeni, Dossevi e Menil, e quindi lui comunque il suo Gibilisco l'ha fatto, una gara aperta dove probabilmente forse non salterà Hooker, il campione olimpico, che ha fatto un solo tentativo a 5,65 ma poi ha avuto un riacutizzarsi di uno stiramento agli adduttori. Ma cosa farà Usain Bolt? Ma dipende se ha voglia di tentare il primato del mondo un'altra volta. Se io penso che lui forse ci proverà, se non c'è vento contro, magari una bava di vento favorevole. Ricordiamo che l'anno scorso corse in 9,92 la curva e poi fece 10,38 contro vento gli ultimi 9,38 gli ultimi 100 metri. Se pensiamo che Michael Johnson ad Atlanta, quando fece 19,32, corse in 9,14, potrebbe essere un po' la chiave della distribuzione della velocità di questa gara. Dipenderà un po' da lui, però certamente l'Italia fra oggi e domani, fra la Di Martino stasera in lotta per una medaglia e domani mattina alle 9 a 50 km di Schwarzer, si gioca gli ultimi due jolly per non uscire a bocca asciutta da questi mondiali che finora sicuramente non sono andati bene. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto tu, ma una volta c'era un carosello che diceva: contro il logorio della vita moderna bevete un cinazzo, sì. E contro il logorio dell'atletica moderna cosa bevono? Forse bisognerà fare come Bolt e cercare magari di allenarsi di più sull'erba, evitare questi manti sintetici su cui si va velocissimi ma che rompono muscoli e mettono in crisi le articolazioni. E Bolt corre sull'erba, vero? Ma lui si fa una volta solo alla settimana, fa molte esercitazioni, molte ripetute, molto potenziamento sull'erba e evita i manti sintetici che, ripeto, sono molto performanti, ma poi alla fine si paga dazio, appunto dicevo, a livello muscolare e a livello tendineo. Mai come in questo mondiale c'è tanti campionissimi che sono arrivati qui muscolarmente a pezzi, o molti, come hai detto tu, Carlo, non si sono neanche presentati. Grazie Giorgio, buon lavoro, ci sentiamo domani. E a voi. Grazie Giorgio Rondelli. Adesso abbiamo ancora 6 minuti, direi, 5 minuti e mezzo per gli ascoltatori. 800240024. Ho un messaggio, comunicazione di servizio, lo do volentieri, anche perché insomma palinsesti televisivi, 20:35 da non perdere Usain Bolt, finale dei 200 metri. Però per quanto riguarda il calcio di oggi, quello dell'Europa League, Cosice Roma comincia alle 16:30 diretta sulla 7, Lazio Elfsborg 20:45 Rai 3, Genoa Udinese stessa ora su Mediaset Premium, quindi per in pay per view. Antonio, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno. Allora, tornando sui sala carica che, diciamo, poi la gente evitava, parlava di Mourinho. Secondo me sì, siamo in un mercato libero, ma ci deve essere comunque un tetto o una forbice, che, cioè, perché poi noi non possiamo far sforare, come ad esempio Eto'o, 10-9 milioni e mezzo di euro. Cioè, secondo me alla fine è un po' troppo riduttivo. Mm. Nel senso, poi per quanto riguarda, volevo fare una domanda. Sì, ma lei... Antonio, però mi perdoni, di cosa stiamo parlando? Di salary cap? Sì, dico, per il salary cap, cioè, ci deve essere comunque una libertà di mercato, come diceva prima Totto, se non sbaglio, giusto, che è intervenuto? Sconcerti. Sconcerti, mi scusi. Però una libertà, ma deve essere comunque controllata, cioè noi non possiamo il primo che arriva a dare questi stipendi da urlo, quando magari sì, sono professionisti, ma... gli stipendi li determina il mercato, poi li determina il mercato e li determina anche la libera volontà di chi, mecenato o no, facendo un affare oppure no, decide di elargirli. Non vedo perché non dovrebbe essere così, insomma. Negli Stati Uniti il salary cap nell'NBA non è qualcosa che calmiera i prezzi delle superstar, perché dicevo ieri, ho fatto un elenco di giocatori dell'NBA che guadagnano, non so, i primi 10 in classifica oltre i 20 milioni di dollari l'anno. Non è che questi con il salary cap guadagnano meno, semplicemente bisogna gestire le politiche in maniera differente, ma il salary cap è soltanto un aspetto di un modo di gestire lo sport che è totalmente diverso dal nostro. Quindi non si parte dal salary cap, si parte dal modo di gestire lo sport, poi vediamo, poi parliamo anche di salary cap, insomma. È vero. Un'altra cosa, secondo lei ci vorrebbero più presidenti come Aurelio De Laurentiis del Napoli, non per quello, diciamo, per quanto riguarda la parte parlata, che secondo me si lavora in famiglia, ma qua per quanto riguarda, dice, tu hai un contratto con me, i diritti sono miei, è tutto sì. mio. Antonio, io purtroppo faccio fatica a sentirla perché oggi le linee telefoniche sono molto disturbate. Certe esibizioni di muscoli di Aurelio De Laurentiis mi sono sembrate eccessive, ad esempio nel caso di Lavezzi. Poi, detto questo, insomma, mi fermo lì, mi è sembrato un po' spesso sopra le righe De Laurentiis nel trattare queste faccende, almeno come toni, come prese di posizione di petto su questi discorsi. Mauro Alessandria, buongiorno. Buongiorno, è sempre un piacere per riuscire a parlare con voi. Guardi, due cose velocissime, che vedo che siete alla fine. A riguardo dell'accesso agli stadi e della tessera del tifoso, sì. Parlo da ex frequentatore oramai, è un po' che non vado più. Ci sono due cose che non mi convincono. La prima cosa è che è la sconfitta di una società civile, perché io dovrei poter andare allo stadio come vado al cinema, piuttosto che certo. come sento la radio. Nel momento in cui lo Stato non è in grado di rendere questa accessibile uno stadio, dobbiamo fare tutte queste cose, è la fine. Ma la seconda cosa che continuo a non capire, e qui chiedo a lei perché, ma perché non si fa una cosa semplicissima? Io il biglietto lo compro col mio documento, lo compro online in banca dal tabaccaio piuttosto che in internet. Sì. Il mio documento non è accettato perché io sono un delinquente che dovrebbe essere magari in galera, non entro, punto. Finito, non che i bagarini poi comunque comprano 50 biglietti per volta con 50 tessere del tifoso. No, no, ma Mauro, a prescindere da quello, partiamo dal biglietto nominale. Già il biglietto nominale, insomma, io non mi piacerebbe avere dei dati se fossero attendibili sull'utilità di questo sistema nel prevenire, sistema con i tornelli, con tutte queste cose, nel prevenire incidenti da stadio, perché mettiamo pure che la violenza sia in calo, non so quali possa essere stata l'incidenza di questo biglietto nominale, che non mi risulta abbia scoraggiato i bagarini, perché i bagarini li troviamo ancora tranquillamente fuori dai nostri stadi, c'è la possibilità di cambiare il nome su internet, eccetera eccetera. Io alla fine credo che tutte queste cose finiscano per disincentivare quelli che, come dice lei, vogliono andare allo stadio per piacere, quando ne hanno voglia. Magari senza fare della demagogia con la famiglia, possono aver voglia di andare allo stadio anche all'ultimo momento, eventualmente devono poter andare lì, comprare il loro bravo biglietto, avere il loro seggiolino, entrare allo stadio senza fare delle code dantesche e punto e basta. Se no, io personalmente rinuncerei, perché diventa un lavoro, una fatica molto costosa. poi per il resto non lo so, facciamo pure le tessere del tifoso. Adesso però ci fermiamo, torniamo domani pomeriggio alle 14. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadone in regia. Buona giornata.